Arrivare a questo trattato significherebbe dotarci di uno strumento straordinario per regolamentare e per evitare la proliferazione forsennata delle armi. Personalmente, anche se ovviamente questo percorso mi lo trovo estremamente stimolante, insomma mi sembra comunque utile portarlo avanti e anche mi piace questo attivismo dei Nobel per la pace, che in fondo sono stati tra i primi a sostenerlo, anche in parte a promuoverlo. Chiedo se sarà mai possibile ottenere uno strumento giuridico del genere, nel senso che un trattato di questa natura effettivamente andrebbe a toccare molti, diciamo, aspetti strategici di tutto il commercio delle armi a livello internazionale. Quindi il mio sospetto è che i governi faranno di tutto per boicottarlo, il che non significa che non debba essere perseguito, ma nella consapevolezza che si tratta di un obiettivo veramente, veramente ambizioso, veramente di lungo periodo e sul quale bisognerà forse, credo, anche trovare delle forme di mobilitazione diverse, creative, da quelle più creative rispetto a quelle che abbiamo attivato nel passato. Per la campagna Mine come parteciperebbe? Che ruolo avrebbe in questo trattato? Ma la campagna Mine ha il ruolo sostanzialmente di segnare una pista possibile. La campagna Mine non in questo momento intende andare avanti sul discorso delle mine, perché per noi è fondamentale arrivare all'universalizzazione di questo trattato e a fare in modo che il trattato di Ottawa, di cui fra poche settimane andremo a celebrare la prima conferenza di revisione, diventi diciamo norma consuetudinaria, cioè applicabile a tutti quanti quelli che pensassero di utilizzare le mine, stati ma anche gruppi non statuali. Per noi questo è l'obiettivo primario. La campagna Mine, tuttavia, in un dibattito disarmistico come quello che il Trattato contro le armi vuole proporre, ha sicuramente un know-how acquisito che vuole condividere, ha sicuramente delle esperienze da spartire e anche, diciamo, può offrire dei riferimenti su quali errori non ripetere e invece quali astuzie adottare per il futuro.